Rassegna eventi. Torna eccoci, torna la settimanale rassegna degli eventi fiorentini selezionati per voi da Radio Wombat, quindi sono anche i migliori. Si inizia sbrodolone. Sì, veramente, si loda, si imbroda. Si inizia da martedì 12 marzo, Cannibale Re presenta il nuovo romanzo che è L'Organizzazione, che è la storia, loro dicono la storia non è neutra né neutrale, come troppo spesso ci vuol far credere, e allora è la nostra storia che dobbiamo guardare, una storia di parte e che prende parte. Presentano un nuovo romanzo insieme all'Almanacco, Cronache Ribelli, che invece è uscito l'anno scorso, il tutto alle 18 alla Facoltà di Lettere e Filosofia in Brunelleschi. Continuiamo mercoledì 13 marzo con dalle 15 alle 17.30 presso stazione di Firenze Santa Maria Novella il presidio contro la violenza poliziesca. Sulla scorta degli eventi recenti del 27 febbraio, quando il pullman dell'Atalanta dal ritorno della partita di Coppa Italia è stato fermato e le persone a bordo sono state massacrate da volenterosi celerini, e dalla violenza che è stata perpetuata ai danni di un ragazzo giovane di cui abbiamo parlato anche in radio in Santa Maria Novella, nonché l'episodio Magherini e tutto il resto. Quindi un presidio per dire basta con la violenza, esatto, poliziesca e con la mercoledì dalle 15 alle 17.30 alla stazione di Firenze. Andiamo avanti con sempre mercoledì Il Manicomio Invisibile, seconda edizione. In verità non è proprio mercoledì, o meglio è diviso in quattro date: il 13, il 15, il 20 e il 24 marzo. È la seconda edizione del Manicomio Invisibile. L'anno scorso verteva sulla questione del quarantennale della legge 180. Quest'anno invece i temi sono diversi: abbiamo immigrazione, istituzioni totali, automazione e quale possono essere le strategie di resistenza, di liberazione e di salute in un mondo che assomiglia sempre più ad un gigantesco manicomio globalizzato. Mercoledì 13 marzo, psicopatologia del processo migratorio presso il plesso di psicologia in via della Torretta 16, aula 11, mi raccomando, alle ore 14. Interverranno il dottor Salvatore Inglese, che è un psichiatra, e il professor Andreas Formigoni, che invece è un docente di scienze della formazione. Vado avanti anche con gli altri eventi? Sì, venerdì 15 marzo, seconda giornata. Che cos'è il benessere e chi lo produce? Questa volta alle ore 16, al centro didattico Morgagni, in viale Morgagni 40, aula Magna. Interverranno il dottor Silvano Cacciari, che è un ricercatore di sociologia, e la dottoressa Edvige Pacchi, che è una psichiatra, oltre al dottor Carlo Botrugno, che è un ricercatore di scienze giuridiche. Andiamo avanti con il terzo appuntamento, che è mercoledì 20, strategie di resistenza e di liberazione di salute a Santa Verdiana, aula 27 alle 17. Aula 17 alle ore 16, con interventi dell'ex OPG occupato Jesop Paz, dello studentato autogestito PDM, che è fiorentino, Mondeggi Bene Comune e i Kille della Balanza. Per terminare il programma del Manicomio Invisibile, vi è domenica 24 marzo un evento speciale a San Salvi, città aperta, in via di San Salvi 12, al padiglione 16, dove i Kille della Balanza organizzano insieme al collettivo al Percorso Psiche uno stage teatrale sulle REMS con Claudio Ascoli, gratuito, a numero chiuso, e quindi bisogna iscriversi, con una performance finale domenica 24 marzo alle ore 21. Prenotazione obbligatoria allo 055 62 36 195 oppure al 335 6270 739. Continuiamo con giovedì 14 marzo, col primo degli warm up in vista dell'HAC meeting che si terrà quest'anno a Firenze. Aperitivo più proiezione del documentario Zero Days alle 21 presso Occupazione Viale Corsica 81. Proiezione del documentario Zero Days con introduzione a cura di If Dua Club. Si tratta di un'interessante ricostruzione delle vicende Stuxnet, un sabotaggio ai danni di una centrale nucleare iraniana compiuto attraverso un malware da parte dell'intelligence israeliana e statunitense. È un bel documentario dove sembra di vedere un thriller, ve lo consiglio, e vi farete anche un po' spiegare che cos'è l'HACLAB neorinato fiorentino IFDU e perché no capire un po' che cos'è avvicinarsi all'HAC meeting in vista del suo arrivo a Firenze. Andiamo a venerdì Venerdì, che è il 15 marzo, è una giornata importante perché vi sono due eventi in particolare. Il primo è lo sciopero mondiale per il clima, con a Firenze at Clima Strike dalle ore 9 alle 13 in piazza di Santa Croce. Partecipa anche te allo sciopero Marcia per il Clima che stiamo organizzando a Firenze insieme a tutti gli studenti del mondo e le studenti anche contro il cambiamento climatico, nella scia del movimento Fridays for Future degli scioperi di Greta Thunberg, il caso che è venuto fuori negli ultimi tempi di questa ragazza quindicenne svedese, se non mi sbaglio, che porta avanti una lotta che di fatto sta avendo anche abbastanza successo. Sì. Non ci fermiamo qua, sempre di clima parliamo. Dopo la manifestazione. Esatto, alle 19, verso il 23 di maggio, di marzo, anzi, Assemblea Cittadina a Firenze, perché il 23 di marzo c'è la marcia per il clima contro le grandi opere inutili che è a Roma. Ci sarà il 15 l'Assemblea Pubblica, intitolata Giustizia Climatica, Lotte Territoriali e Beni Comuni, tutto questo in Piazza Tasso dalle 15 alle 19. Vi sarà anche un incontro con il Movimento NoTav Firenze. Sì, l'incontro con il Movimento NoTav Firenze sarà sempre il solito giorno, però dalle 18 alle 21.30, quindi ci avete proprio la giornata piena, se volete. Si terrà presso la sede di YAM Sakine, la nuova in via Ghebellina 14B Rosso, nuova sede di YAM, in cui si parlerà del movimento NoTav e la sua connessione con la lotta alle grandi opere, fondamentalmente. Eh sì, andiamo a sabato. Sabato vediamo presso gli spazi della polveriera comune dalle 10.30 di mano in mano il mercato dell'usato, del baratto e del riuso all'interno della passeggiata della polveriera, promossa dalla polveriera. E di mano in mano cambia location, torna, si può dire, a Santa Reparata, qui c'è scritto Santa Preparata. E per info e partecipare con il proprio banco 348 16 14 690. Vabbè, continuiamo sempre sabato con un incontro focalizzato sulle parole d'ordine gentrificazione, aerificazione e ciboficazione, l'ho italianizzati, presso la Mara Book Libreria in via Maragliano 29. Si parla, a partire da storie della tua città, retroscena di un palcoscenico turistico. 16-19. Sempre sabato. Laboratorio di maschere per la manifestazione del 30 marzo al Circolo Arci della Costituzione dalle 16 alle 19 per una Firenze e una piana senza nocività, che sono l'obiettivo delle lotte di questi anni contro incenerimento dei rifiuti, aeroporto nuovo e vecchio, cemento, speculazione e nuovi attrattori di traffico. L'obiettivo il cui raggiungimento per molti di noi guarda all'unico futuro possibile di figli, bambini e nipoti. Quindi tutto questo per richiedere il parco della piana, tutto che vogliono, che vogliamo e che vogliono tutti e tutte gli abitanti di Firenze. La rassegna eventi si chiude qui, sicuramente siamo dimenticati di un sacco di eventi, ma se pensate ci sia roba... Esatto, una ve la dico io, che ce la siamo scordati, è di mano in mano, è la mattina, dalle 10.30, ma la giornata prosegue con una passeggiata promossa dalla Polveriera Spazio Comune e una serata, sempre presso la Polveriera Spazio Comune in via di Santa Reparata, 12R, con a suonare la Disco Rebel Foundation. Wow! Yeah. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra